parole, gli aspetti paraverbali, tono di voce, timbro, ritmo. E questo? Corpo. Corpo cosa conta? Tempo, ritmo. Se sono veloce o no, se sono agitato, se sono lento, tranquillo. O di solito l'induzione di trance è un passaggio da qua a qua, dalla mente agitata alla mente tranquilla. Quindi, quando noi ci avviciniamo a una persona, facilmente si trova qua. Pian piano, si tratta di riconoscere questo, sentirlo, questo ritmo, ma noi già ancorarci a un ritmo più lento. Allora, il tempo ritmo è centrale dell'ipnosi, quindi si tratta di entrare in sintonia con l'altro, capire che è qui, una parte di noi lo riconosce, ma una parte di noi sta già facendo questo, quindi c'è questo e questo insieme, fino a che questo qua si attena e diventa così. Che cos'è che rallenta? Invisibile? Respirazione. La gestualità si riduce fino quasi a scomparire. Se ci sono dei movimenti, sono i movimenti inconsci, quelli, non quelli lì, quelli volontari, ma quelli involontari. Quello che possiamo passarvi sono alcune cose essenziali che se introducete nella vostra vita riuscite a guidare i vostri stati mentali da uno stato di agitazione a uno stato di calma, dalla superficie del mare agitato al fondo del mare tranquillo, tranquillo, senza cause, senza condizioni. Questo della superficie non agisce qui. C'è un luogo dentro di noi che è sempre calmo e tranquillo. Tornare a casa vuol dire ritornare lì. Tornare alla casa del padre. È quello. Lì io sono al sicuro. Fuori di quel punto io sono sulla superficie dell'oceano e dipendo dai venti, quindi sono dipendente. Finché sono dipendente, dipendo, sono impotente, un vento forte scuote la mia barca, rischio di capotarmi. Un'onda molto alta e verticale può inghiottire la mia barca. Se noi viviamo sulla superficie, questo è il nostro destino. Capotarci, andare a mare più volte. Ma dentro di noi esiste un altro luogo dove i venti non arrivano. Bisogna avere il coraggio di immergersi. Siccome tutti siamo abituati culturalmente a vivere sulla superficie, viviamo nella paura. Ma la paura produce questo tipo di onda. E quando io ho paura dentro e ti parlo, indipendentemente da quello che dico, ecco cosa passa. la componente emozionale, quello passa. E su quello non possiamo mentire. È difficile capire questo? Sì, perché la nostra cultura siamo abituati a pensare tutto in questi termini. Noi andiamo a scuola e quello che succede lì sotto non interessa a nessuno. Quindi non ci interessa il 90% di ciò che interessa i bambini piccoli. Cioè la qualità della relazione, che è la qualità dell'energia. Ci sono insegnanti che entrano a scuola e urlano per far tacere gli studenti. L'urlo fa parte della mente agitata, di superficie. Lo studente non riconosce come leader un insegnante così, perché non è più grande di lui. Perché l'insegnante fa così? Perché ha paura, perché si sente impotente, non sa come fare. Che nella sua formazione non c'è questo strumento. Vedete, più siamo piccoli, più siamo bambini, più siamo in presa diretta col sistema delle emozioni. Il nostro sistema limbico, emozionale, è completamente aperto. Quindi la cosa che noi percepiamo non è manco cosa ci viene detto, ma come? Come?